America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, devo dire che ieri abbiamo assistito a un grande, grande Trump show. To be honest, I inherited a mess. It's a mess. At home and abroad. A mess. Ecco, avete sentito qui Donald Trump, uno dei passaggi di questa lunga conferenza stampa, incontro stampa. In realtà doveva essere un annuncio per la nomina del nuovo segretario al lavoro, Alexander Acosta, e dopodiché si è trasformato in un happening, perché Donald Trump ha parlato per, diciamo, quasi 40 minuti, ha poi risposto a domande dei giornalisti, complessivamente ha parlato per un'ora e 16 minuti. E devo dire, ha parlato di tutto, si è sfogato, ha attaccato la stampa, ha detto che la stampa lo tratta in modo non corretto, ha parlato di Vladimir Putin, ha difeso l'operato del generale Flynn. Diceva, Flynn non faceva nulla di male, faceva il suo lavoro, la cosa per la quale io ho dovuto poi chiedergli di dare le dimissioni è perché ha mentito al vicepresidente Pence. E in questo caso, avete sentito questa dichiarazione particolare, c'è uno sfogo, dice: abbiamo ereditato un casino, è mess vuol dire un casino, una situazione disastrata sia a livello nazionale che a livello esterno, in poche settimane abbiamo fatto dei progressi incredibili, non è vero che c'è confusione, la Casa Bianca è una macchina che funziona alla perfezione, ma abbiamo ereditato il caos, un vero disastro. Ecco, devo dire, sono state molte reazioni a questa conferenza stampa di Donald Trump. È stata una conferenza stampa storica sotto un certo punto di vista, perché osservare un presidente americano che parla così a ruota libera e dice esattamente quello che gli viene in mente, senza magari ponderare le conseguenze delle sue parole, essendo lui un capo di Stato, anzi il capo della principale potenza mondiale, è stato sicuramente interessante. Io non condivido l'opinione di alcuni che dicono che Trump era così magari fuori di testa, oppure era... No, abbiamo visto il solito Trump che si sfoga contro la stampa, ritiene che la stampa, come dire, continui a pubblicare o a diramare fake news, notizie finte, notizie false. C'è stato un passaggio in particolare, però, in cui in effetti, come dire, la conseguenzialità logica di quello che diceva il presidente Trump non c'era. Sentiamo. Well, the leaks are real. You're the one that wrote about them and reported them. I mean, the leaks are absolutely real. The news is fake. Because so much of the news is fake. So one thing... Ecco, sentite, il presidente dice: le indiscrezioni che sono state diramate erano vere, ma le notizie erano false. Allora, se le notizie riportano le indiscrezioni e le indiscrezioni sono vere, e lo dice lui stesso, come fanno le notizie ad essere false? Cioè, devo dire, mi trovo anch'io, ho dedicato anche a questo tema qui a America 24 addirittura un paio di puntate. Cioè, molto spesso noi giornalisti ci troviamo, come dire, messi un po' in mezzo per il semplice fatto di dare delle notizie, raccontiamo un fatto esattamente nel modo in cui è avvenuto e qualcuno attacca, parte all'attacco dicendo che questa non è una notizia, è una notizia falsata. Ma la notizia è la notizia. Dunque, ecco, questo è stato un momento secondo me piuttosto interessante, in cui da una parte il presidente dice le indiscrezioni che sono state diramate alla stampa erano vere, però poi la stampa ha dato fake news, ha dato notizie false. Sentiamo appunto un momento in cui Trump attacca la stampa. The press has become so dishonest. I turn on the TV, open the newspapers and I see stories of chaos. Chaos. Yet it is the exact opposite. Ecco qui, Trump va direttamente contro i media. Trump, devo dire, era molto calmo, sapeva esattamente quello che stava facendo, secondo me. Devo dire, molti dei miei colleghi pensano che magari Trump abbia perso un po' la bussola su certe cose. Assolutamente no. Trump sa quello che sta facendo. Trump usa il podio, come quello che ha usato ieri della Casa Bianca, per rivolgersi direttamente alla sua base elettorale, direttamente agli americani, e attaccando la stampa, insomma, lui è il presidente degli Stati Uniti, gli fa perdere credibilità. In questo caso dice: la stampa è fuori controllo, la disonestà è fuori controllo, i media attaccano la nostra amministrazione perché sanno che stiamo dando seguito a quanto promesso, e la cosa non li rende felice per qualche motivo. Accendo la televisione e vedo storie di caos, mentre invece non c'è alcun caos. tutto funziona assolutamente bene. Poi c'è stata una domanda sulla Russia. Ecco, la questione della Russia ovviamente domina da quando abbiamo saputo che Vladimir Putin aveva autorizzato la pubblicazione di certe intercettazioni che riguardavano la campagna di Hillary Clinton raccolte dai servizi segreti di Mosca. Su questo c'è un'inchiesta, la storia vecchia la conosciamo. Ecco, però la cosa interessante è seguire la dinamica attorno alla problematica russa, perché ci sono state indiscrezioni secondo cui durante la campagna elettorale degli alti funzionari della campagna di Donald Trump avevano parlato con degli agenti dei servizi segreti russi. Ecco, io qui forse lo erano, però magari possiamo anche immaginare che questi signori non sapevano che quelli fossero agenti dei servizi segreti russi. Lo vedremo, c'è un'inchiesta in corso anche su questo. Poi siamo arrivati al punto chiave, perché dovete sapere che c'è un'indiscrezione che circola ormai da qualche tempo, su cui molti stanno lavorando, secondo la quale Donald Trump avrebbe avuto dei prestiti anche importanti da istituzioni finanziarie russe che gli avrebbero fatto dei prestiti ponte nel momento in cui aveva delle difficoltà e dei problemi di liquidità. Ecco, su questo a un certo punto Trump è intervenuto, perché sa benissimo che di questo si parla. Ha detto: io non ho mai parlato con nessuno in Russia, non ho mai avuto alcun rapporto con la Russia in moltissimi anni, ho parlato con Putin due volte. E dopodiché ha dato anche un'interpretazione politica della vicenda: come mai la Russia ha fatto certe cose, per esempio lo schieramento segreto di certi missili cruise che non dovevano essere schierati? Beh, Trump aveva la risposta pronta, perché la stampa, di nuovo colpa della stampa, ha sparso veleno che rende più difficili, più complesse le relazioni fra la Russia e gli Stati Uniti. E dunque Putin può pensare: a questo punto io non potrò più fare un accordo con Donald Trump, sarà più difficile per me farlo, e dunque si insospettisce. E Trump è andato avanti a dire: bene, nel frattempo io ho il mio segretario di Stato Rex Tillerson che si sta incontrando col ministro degli esteri Lavrov, e dunque io sono sicuro che da lì in avanti potremo fare dei progressi. Comunque il tono di questa conferenza stampa è stato sorprendente, interessante, affascinante. Non capita spesso, vi ripeto, di vedere una conferenza stampa di questo genere, e Donald Trump aveva preannunciato, dice: domani ci saranno i titoloni sui giornali, Donald Trump parla a ruota libera. Beh, in effetti ha parlato a ruota libera, ma ha parlato a ruota libera soprattutto di se stesso, di cose che lo preoccupano, dei suoi rapporti con la stampa. Non ha parlato delle problematiche del paese, ha attaccato la stampa perché ritiene che sia ingiusta nei suoi confronti, e questo è stato un lungo intervento. Ha difeso di nuovo il risultato elettorale, non c'è bisogno, ormai Donald Trump è presidente. Insomma, sì, è vero, come dicono i titoli dei giornali, Donald Trump ieri ha parlato a ruota libera. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, allora, Donald Trump è sceso sul ring, si è scontrato con i giornalisti, e ho pensato che la canzone ideale per oggi sia proprio The Boxer di Simon & Garfunkel. Perché? Beh, perché insomma Donald Trump ha affrontato questi giornalisti che spesso gli sono ostili, e quindi li ha attaccati, ma in qualche modo diceva di essere lui stesso vittima. C'era un velo in qualche modo di tristezza dell'uomo che alla fine forse si sente troppo solo. The Boxer, Simon & Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chess, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let him scare. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, lie-la-lie. E da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!